Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo a Torino questa sera per parlare di una sperimentazione che punta a sfruttare i tunnel della metropolitana per ricavare energia geotermica, energia con cui poi riscaldare in inverno e climatizzare d'estate gli edifici sovrastanti. Il progetto, che coinvolge il prolungamento della linea 1 della metropolitana del capoluogo piemontese, è stato messo a punto dal Politecnico di Torino, dal team capitanato da Marco Barla, che è professore di metodi numerici di ingegneria geotermica, che è in linea con noi per parlarcene. Buonasera Barla. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, si tratta di una sperimentazione per il momento molto limitata che prevede l'attivazione termica dei tunnel della metropolitana attraverso una soluzione che lei ha brevettato assieme ad Alice Di Donna, che lavora con lei nel team di progetto. Allora, le chiedo, Barla, per prima cosa proprio di descriverci in che cosa consiste questo progetto, che cosa vuol dire attivare termicamente una galleria della metropolitana. Allora sì, quello che facciamo noi, che intendiamo fare, è quello di trasformare il rivestimento in calcestruzzo della galleria, cioè il rivestimento che serve a sostenere lo scavo. Sì, sono degli anelloni di cemento, no? Sì, con le tecniche di realizzazione che si usano molto oggi, cioè le talpe, esatto, le macchine TBM, il rivestimento viene montato in elementi che vengono chiamati conci. Sono come dei vari pezzi di Lego che sono montati insieme subito dopo che la macchina di scavo, la talpa, ha scavato il terreno. Ora, il fatto che siano conci vuol dire che sono prefabbricati in uno stabilimento. Questo ci consente, durante la prefabbricazione, di andare a inserire all'interno del calcestruzzo delle tubazioni del tipo di quelle che si mettono nei pannelli radianti dei pavimenti per riscaldare. Sì, dei tuboni di plastica, diciamo, detto brutalmente. Esatto, sono tubi in PVC all'interno del quale faremo scorrere un fluido termovettore che ci consentirà di scambiare calore con il terreno. Dove traiamo vantaggio? Traiamo vantaggio del fatto che il terreno attorno al rivestimento della galleria, quindi più o meno nella galleria vengono realizzate a 10-15 metri di profondità, ha la temperatura costante tutto l'anno. Per esempio a Torino noi abbiamo 14 gradi e mezzo tutto l'anno. Che è un'ottima temperatura da cui partire quando si vuole riscaldare l'acqua per fare il riscaldamento invernale, ed è un'ottima temperatura da cui partire per fare il raffrescamento invece durante l'estate, no? Esatto, è perfetto, perché noi d'inverno a metà abbiamo 0 gradi, quindi sotto ce ne sono 15 in più, ed estate ce ne sono 30, quindi sotto ce ne sono 15 in meno, per cui d'estate possiamo prendere il calore dall'edificio e andarlo a stoccare nel sottosuolo, ed inverno possiamo fare il processo inverso, cioè prendere il calore che c'è nel sottosuolo e portarlo nell'edificio. Questo lo facciamo tramite lo scambiatore termico, che è il rivestimento della galleria, quindi chilometri e chilometri di galleria possono diventare un enorme scambiatore termico. Ecco, diciamolo subito, perché è importante fare un'operazione del genere quando si costruisce la galleria e non in un altro momento? Non a posteriori, per esempio, perché è una cosa a cui voi avevate pensato. Perché si va a sfruttare un'opera che realizziamo già per altri fini trasportistici, che quindi ha i suoi costi, e con pochissimo costo aggiuntivo utilizziamo quella stessa opera strutturale anche per fare uno scambio termico, per cui integriamo lo scopo strutturale con uno scopo energetico, per cui il costo aggiuntivo è molto piccolo, e quindi farlo su un'opera nuova ha questo grosso vantaggio. Mentre se si dovesse intervenire a posteriori, a parte che le condizioni tecniche sarebbero peggiori, adesso non stiamo a spiegare perché, ma di fatto comunque i lavori, diciamo, di fatto avremo un costo aggiuntivo legato all'installazione successiva della, esatto, ed è il motivo per cui cose di questo genere infatti poi non si fanno. Ecco, senta, veniamo alla sperimentazione. Dicevamo, una sperimentazione per intanto limitata, no? Sì, noi andremo ad installare vicino alla stazione di Piazza Bengasi, quindi zona sud della città di Torino, due anelli di rivestimento, quindi due anelli, quindi per una lunghezza complessiva di 3 metri. 3 metri di tunnel, quindi pochissimo. Che cosa serve questo però? Questo serve però a verificare tutti i calcoli che noi abbiamo fatto negli anni passati per andare a verificare quanto calore siamo effettivamente in grado di scambiare con il terreno. Noi nella sperimentazione andremo a simulare sia il funzionamento estivo sia il funzionamento invernale, avremo quindi una pompa di calore collegata al nostro circuito di tubi e andremo a quantificare dal vero quant'è il calore che possiamo scambiare. Noi tutti questi dati già ce li abbiamo fatto un gran numero di simulazioni numeriche, ma adesso toccheremo con mano quanto le nostre simulazioni numeriche sono state in grado di prevedere il reale funzionamento del sistema. Cerchiamo di dare un'idea, con un chilometro di metropolitana attrezzata in questo modo, che cosa si può climatizzare? Allora, dipende dalle condizioni geologiche e idrogeologiche del sottosuolo, ma indicativamente 200-300 appartamenti. Noi avevamo fatto un calcolo, ad esempio con 1,5 km di galleria scaldavamo il grattacielo della regione Piemonte in corso di costruzione a Torino. Ecco, le chiedo per concludere, dopo questa sperimentazione di Torino, quali sono le prospettive? Beh, lo sviluppo principale potrebbe essere la linea 2 della metropolitana di Torino, che adesso è in corso di progettazione. Poi noi stiamo lavorando anche sulla metropolitana di Varsavia e sulla galleria ferroviaria della Torino-Lione. Va bene, grazie professor Barla. Grazie a voi e saluti a tutti. È tutto anche per questa sera, l'appuntamento con l'innovazione torna lunedì come sempre con Smart City, come sempre su Radio 24. Da Maurizio Melis, buona serata, buon fine settimana.